Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolato al microfono, sono le 16.06 e oggi sono in compagnia di Guido Romeo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorremmo occuparci di Copenaghen dopo tutte le puntate che abbiamo fatto. Poi com'è andata? Male. Non ce l'abbiamo fatta. È andata male, insomma. Però insomma, siamo contenti di aver dedicato tempo e minuti, radio, energia, attenzione. Sì, insomma, abbiamo raccontato i tavoli tecnici, abbiamo provato ad essere il più specialisti, il più scientifici possibile, guardare i numeri, non guardare la politica, ma poi di fatto la politica è quella che... Ma io lo salvo anche un po', dai, perché in fondo sì, è vero, siamo fermi su questi 3 gradi invece che 2, 2 e mezzo, però in qualche modo credo che serva anche a rilanciare il messaggio che si deve fare qualcosa. Poi in fine di meeting tutti hanno rilanciato, Sarkozy ha detto che comunque continua a fare, e poi il segnale più importante è che il mercato in realtà ha già detto sì a Copenaghen. Se tu guardi gli investimenti, tutti stanno andando a investire in energie rinnovabili, tecnologie pulite, quindi certo, il meccanismo è innescato. C'era chi si aspettava un accordo stringente obbligatorio. Io non tutti. Ho mai visto uno di questi summit terminare con un accordo stringente vincolante per tutti. No, perché tu non sei un ottimista, però invece la buttiamo in musica in un certo senso, cioè proprio come post depressione da Copenaghen. E come la buttiamo in musica? Presentando uno dei principali, nonché un non c'è ancora, per cui non lo presentiamo, ma insomma introducendo quello che è uno dei temi caratteristici di Nova Lab, ovvero la declinazione della musica in termini tecnologici. E per far questo Guido Romeo ci ha scritto una splendida scheda. Strumento di elevazione spirituale, antidoto contro la sofferenza, elemento fondatore delle comunità. La musica è un fatto universale, quasi prelinguistico. Oggi però le nuove tecnologie digitali permettono una composizione e un ascolto del tutto nuovi. La digitalizzazione ribalta in qualche modo la teoria di Walter Benjamin, dando a produzione e riproduzione digitale capacità iperreali. I beat hanno fatto esplodere il pentagramma oltre le possibilità di corde, percussioni e fiati. Grazie all'informatica e a sensori sempre più sofisticati, oggi anche i corpi di musicisti e ballerini sono diventati veri e propri strumenti musicali. La fusione di una delle arti più antiche del mondo con le ricerche sull'acustica, che ci permettono di capire come sente l'orecchio umano, e le tecnologie digitali, oggi stanno nascendo nuovi generi, nuove possibilità creative e nuove forme di collaborazione. Un esempio sono i progetti come MAGA, una task force artistica internazionale ideata e diretta da Yuval Avital, che raccoglie artisti di vari ambiti, musica, danza, nuove tecnologie, teatro e arti visive, ma anche progetti come About the Head, una performance live altamente innovativa, realizzata dal centro di sperimentazione musicale Agon, in collaborazione con il laboratorio di informatica musicale dell'Università Statale di Milano. Se è vero che conosciamo un'età più vividamente attraverso la sua musica che attraverso i suoi storici, capire come si intrecciano oggi i beat e le note è un passo indispensabile per capire il nostro tempo. Attenzione, un passo indispensabile per capire il nostro tempo. Sono sbilanciato. Sì, si è lasciato un po' andare. Una penna scientifica come Guido Romeo si è lasciato un po' andare. Però insomma, quello che è dove puntare un po' il compasso è il fatto che in questo momento la musica è un laboratorio per quanto riguarda internet, è terra di contaminazione per quanto riguarda i generi, ed è sicuramente un luogo dove si sta sperimentando moltissimo. Anche per questo noi abbiamo qui con noi Roberto Andreoni. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, il suo curriculum è impressionante, anche perché ho 40 righe qui davanti. Non insomma, importa, compositore, professore universitario, ma soprattutto uno dei fondatori di Agon. Sì, corretto. Sì, quasi. Sono arrivato fra i primi di un gruppo che è tuttora in continuo movimento. Ma che cos'è Agon? Ci spieghi bene, perché Agon, abbiamo accennato, ma è... Effettivamente è un centro di ricerca, cioè qualcosa di più di uno studio di registrazione. è qualcosa di più di uno studio di ricerca tecnologica. È un gruppo di artisti e ingegneri che si sono messi insieme per cercare di creare soluzioni espressive davanti, di fronte allo svilupparsi della tecnologia. Di solito vediamo sia nelle università che nei grandi centri di produzione uno iato fra questi due aspetti. Da un lato la tecnocrazia che si evolve ma fatica ad esprimere, dall'altro lato il compositore impotente di prendere atto della tecnologia che si evolve. In questo caso abbiamo cercato di unire le forze e provare a vedere in che modo l'evolversi dei software, delle macchine, delle possibilità di interazione fra performer, suono registrato e dal vivo, potesse dare delle soluzioni espressivamente avanzate. Ecco che non è il sano, buon, vecchio remix, cioè che adesso va tanto di moda, ossia, cioè non siamo al campionamento di suoni e al mix di suoni, un po' come dico di moda semplicemente perché gli ultimi libri da Punk e Capitalism in giù, insomma, ragionano ormai la musica come una sorta di grande fabbrica dove l'utente finale, cioè l'ascoltatore, insomma, prende i suoni, mischia, cambia le carte in tavola e diventa lui stesso in un certo senso compositore. Sì, questo è uno degli effetti della tecnologia, in effetti. Siamo diventati tutti compositori. La semplificazione dei software fa sì che il bambino di 12 anni possa creare un editing semiprofessionale dei suoi brani preferiti e fare anche il DJ nella propria cameretta. Questo dà l'illusione di possedere l'espressività artistica. Invece, in realtà, c'è molto di più in gioco che non questo. La tecnologia, da un lato, commercializza la possibilità che un tempo era stratosferica dell'espressività musicale. Dall'altro lato, però, ha creato una distanza, invece, fra il compositore che si occupa di ricerca e che quindi entra, come nel viaggio al centro della Terra, entra in un viaggio dentro al suono per sezionarlo, aggregarlo, disgregarlo, esploderlo, riassemblarlo in milioni di possibili direzioni di ricerca, ma questo è allontanato allo stesso tempo dal grande pubblico che invece fruisce della tecnologia molto più dal punto di vista di un uso semplice. Ma quotidiano. Tu che sei un compositore, come giudichi questo fenomeno? Cioè, come giudichi il fatto che il tuo lavoro possa venire preso, parcellizzato, un suono dietro cui magari hai lavorato moltissimo può essere poi di fatto campionato, messo su internet? Questo è uno dei problemi. È una ricchezza, un'opportunità come parte, anzi forse la maggior parte di quel mondo di internet che si chiama i Creative Commons, che si chiama quindi a un certo modo di intendere il diritto della proprietà della musica, quindi è una ricchezza, un'opportunità, oppure questa è una pirateria selvaggia? Bravo, abbiamo già toccato uno dei tasti dolenti, che è proprio questo. Se chiunque può entrare, sezionare, appropriarsi di un suono, chi è proprietario del diritto d'autore sul sound design di oggi? Questo è uno degli aspetti. Io credo che, come la rete ha liberato l'informazione e l'ha resa universale e fruibile da tutti, allo stesso tempo, non me ne voglia la SIAE, a cui io stesso sono iscritto, ma da un certo punto di vista scappa fuori da tutte le parti il controllo del diritto d'autore. Tanto più invece il controllo sul suono è possibile, tanto meno è possibile controllarne i controllori. Certo. Senti, tornando invece al tema invece più ingegneristico del suono, cioè per cui a capire, lei ha prima parlato, io do del lei, do del tu, cambio, ma lo faccio sempre, è una cosa, il bello insomma di questa trasmissione, però insomma al di là di, cioè lei prima ha parlato di una tecnocrazia, cioè di chiaramente un manipolo, quantomeno una lettura della musica che predilige gli aspetti tecnologici, vado a immaginare. Oggi questa tecnocrazia come, da chi è composta? Non vogliamo tanto sapere i nomi, ma vogliamo sapere quali sono gli effetti di questo fenomeno, cioè di una musica che ha un suono, sono come? Diciamo che fin dagli anni 60 ha cominciato a svilupparsi l'intuizione, forse più in Francia che in America, di poter andare a fondo di una ricerca sul suono che sfruttasse tutte le potenzialità delle nuove tecnologie. Io ero a Berkeley nei primi anni 90 e David Wessel e John Chowning lavoravano per Boulez per creare i laboratori dell'IRCAM in Francia, che oggi sono lo stato dell'arte della ricerca musicale. Creano i software che pian piano, da prima i compositori professionisti, poi sempre più vengono commercializzati verso il grande pubblico, vengono utilizzati da tutti. Iniziarono con le tastiere MIDI di per cui siamo alla presto. Le tastiere Yamaha, eccetera, che sono già superatissime, ed era soltanto 10-15 anni fa. E in questo senso direi che c'è un buon connubio fra la ricerca tecnologica, quindi matematica, di computer science, informatica, ma anche psicoacustica. Anche psicoacustica, anche se ecco, su psicoacustica lancio il numero degli ascoltatori 824 0024, sugli sms 349 238 66 66, insomma chiamate. Oggi parliamo un po' di ingegneria del suono e di musica contemporanea. Quindi torniamo alla psicoacustica, nel senso che se da un lato la tecnologia informatica lavora su come produrre e controllare il suono, la psicoacustica allo stesso tempo studia come il suono viene fruito, percepito dall'ascoltatore, quindi dall'orecchio umano, e questo si fonda poi come base per il perfezionamento, la correzione e l'update di tutti, di tutte le tecnologie. Pensiamo, per fare un esempio che capiscono tutti, al Dolby Surround, quindi al home theater, ecco, che è iniziato nei grandi cinema, quella, e oggi è alla portata di tutti. Quella è tra l'altro è da lì che poi parte il ragionamento sull'ascolto in 3D, la cosiddetta effetto 3D, che io non ho mai capito, ma magari lei mi può spiegare. Beh, cominciamo dalla stereofonia. Stereofonia, si è cominciato a capire che la spazializzazione di un suono poteva essere importante. Che venisse da destra o da sinistra creava un ambiente di ascolto più reale, quasi simile a quello della sala da concerto. Questo è diventato sempre più perfezionato poi in quadrifonia, ottofonia e nel sistema surround. L'ascolto cosiddetto in 3D è quello che studia anche la possibile percezione dell'alto e basso, un suono che viene dall'alto o che viene dal basso. Però questo, ecco, questo è una dimensione della verticalità. Questo però è appannaggio dell'utente professionale che ha tempo, soldi e spazi per provare un'esperienza di ascolto di questo tipo, o è un qualche cosa che da qui ai prossimi anni potrà diventare, non dico di uso comune, però... Sono cose che iniziano a sperimentarsi nei grandi centri studi, nelle università americane, nelle università europee, e poi pian piano vengono abbracciati dall'industria. In questo modo entrano a far parte dell'esperienza di ciascuno. Diventano poco alla volta il nostro nuovo modo di ascoltare, di seguire un film, di ascoltare un supporto. Prima si diceva magnetico, oggi non è neanche più magnetico. Mai è perso il magnetico. Io volevo chiederle una cosa, ma ecco, provi a lanciarsi, non dico in una predizione, ma in una previsione. Cos'è che secondo lei potremmo vedere tra 4-5 anni, o anche forse meno, perché i ritmi poi di adozione da parte dell'industria sono molto rapidi? Io mi ricordo il mio primo Walkman da ragazzino che diceva stereo, come dire, guarda che è un'innovazione forte. Poi anche il Dolby, adesso ci sembra una banalità, ma... ci sono cose che, per esempio, mi spiegavano come è fatta la testa umana, è un concetto molto particolare, insomma. Che cosa potremmo vedere però veramente nella tecnologia di consumo, insomma, che invece voi state utilizzando? In questo, per esempio, Agon sta lavorando insieme al centro studi, appunto, dell'Università degli Studi di Milano, il LIM, questo progetto che si chiama About the Head, che praticamente lavora su dei dummies, cioè dei manichini, come ci sono i dummies per provare l'impatto dell'incidente d'auto. Così c'è il manichino, la testa del manichino imbottita di un dispositivo che simula il più possibile la realtà dell'ascolto umano. E attraverso questi recettori si possono misurare tutti i tipi di reazione al suono esterno che colpisce l'orecchio dell'ascoltatore. Quindi questo progetto si articolerà in quattro fasi progressive, una più prettamente di ricerca e poi, come è nella vocazione di Agon, già in tentativo artistico, già il tentativo di declinare quel tipo di ricerca in un prodotto che possa essere ascoltabile da tutti e quindi criticabile più o meno, ma che sia un passo avanti di sintesi, non solo dell'analisi della situazione, e che provi a buttare un sasso riguardo alle possibilità. Ma l'industria vi sta finanziando su questo? O perché le industrie poi sono estremamente conservatrici in realtà nelle loro... Ci sono tre ascoltatori che si chiedono che cos'è la psicoacustica. La psicoacustica comunque colpisce, cioè, perché effettivamente sembrano quelle forme che dice no, allora vabbè, faccio un passo indietro. Perché questo è l'altro aspetto, cioè la psicoacustica allontana, è cacofonico come termine, comunque scusate. No, in realtà è divertentissimo perché spiega dei meccanismi che tutti sperimentiamo tutti i giorni e come la musica nei secoli, molto prima che la tecnologia esistesse, avesse già fatto tesoro di queste esperienze semplici umane, per esempio la ripetizione di un frammento melodico, la ripetizione di un ritmo, il riconoscimento di un timbro di una persona piuttosto che di un'altra, quindi la grande selettività, il grande computer che c'è già nel nostro apparato acustico. In che modo aiuta il comportamento e aiuta a distinguere e quindi a elaborare l'ascolto della musica nelle varie culture, nelle varie epoche. Tra l'altro, Guido, noi avevamo scritto un paio di articoli anche su Nova, insomma, la neuroscienza applicata alla musica. La neuroscienza applicata a musica è interessantissima, perché c'è poi tutto, mi dicono alcuni amici che frequentano queste cose anche professionalmente, c'è tutto un lavoro appunto sui manichini, sui anche i sistemi di che lo chiamano di sinestesia, cioè di unione di quello che è la sensazione uditiva con quella che è la sensazione visiva, gli altri sensi. Il primo meccanismo, la prima macchina sinestetica, se vogliamo, una delle prime, è stata proprio di nuovo il Walkman, perché ti permetteva di dissociare il piano uditivo, associare anzi un piano musicale uditivo a una scena che non esisteva. Ma, tra l'altro volevo chiedere ad Andreoni che ho incontrato oddio 6 mesi fa il capo delle etichette mondiali dell'industria, insomma, per parlare di pirateria poi sostanzialmente, e il tema che lui sollevava era il seguente: ma insomma, si guardi intorno, tutti portano le cuffiette, se tutti portano le cuffiette vuol dire che tutti ascoltano la musica, il che significa che la domanda di musica, di canzoni è esplosa rispetto al mondo analogico, per cui a una decina di anni fa. Questo, lui poi faceva questo tipo di ragionamento, questo ci induce a aprire dei processi contro la casalinga negli Stati Uniti, insomma a colpire con il maglio, usare un atteggiamento estremamente violento nei confronti di coloro che poi di fatto copiano o piratano la musica. Questo discorso qua chiaramente è lecito da parte di un discografico, ma quello che io mi domandavo è: coloro che hanno le cuffie, coloro che adesso ascoltano la musica facendo altre cose, da un punto di vista del compositore, è l'equivalente, cioè il passaggio è quello di cominciare a ragionare sulla colonna sonora di una vita piuttosto che sulla canzone, per cui su un prodotto che va ascoltato con il 100% dell'attenzione, ovvero un compositore deve ragionare a la mia canzone verrà ascoltata facendo n cose, oppure, perché un tempo uno andava a concerto, faceva quello, ascoltava quello, tutta l'attenzione era catalizzata verso quel tipo di evento. Bravissimo, questo qua è uno dei nodi importanti della situazione. Se da un lato la nuova tecnologia a portata di tutti ha esteso la fruibilità, non ha esteso automaticamente anche la qualità dell'ascolto. Sicuramente la quantità, anzi direi in senso inversamente proporzionale all'ascolto qualitativo, proprio perché ascolto facendo jogging, correndo, lavorando, cucinando, scrivendo al computer, ho bisogno di usare un sottofondo semplicemente. Beethoven è di estremo fastidio. certo, mentre io ascolto distrattamente già Beethoven, figuriamoci poi musica più complessa contemporanea che vuole narrare, dire, mostrare e non mostrare certe caratteristiche, ha bisogno di un ascolto focalizzato, attento, e questo è sempre più in crisi sia quindi, nelle sale da concerto, che, questo è un dato importante. Noi abbiamo una telefonata, abbiamo Francesco da Caserta, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, leggo che è un compositore lei. Sì, io sono musicista, compositore e diciamo forse uno dei pionieri dell'uso dell'informatica musicale, praticamente. Ed uso ogni giorno, uno studio di registrazione, ed uso naturalmente tutta una virtual orchestra che negli anni è conseguito dalle tecnologie più recondite fino alle tecnologie più avanzate. E, il parere mio fondamentale è quello che praticamente le nuove tecnologie aiutano tantissimo adesso oggi agli arrangiatori per dare la possibilità di fruire a quegli arrangiatori naturalmente che abbiano le caratteristiche tecnologiche, quindi quelli che sono al passo con la tecnologia, ci dà la possibilità insomma di ampliare sia una ricerca poi ad un prodotto veramente finito. Ma questo per l'arrangiamento, però per la composizione è un altro paio di maniche. Per la composizione è la stessa cosa, guardi, devo dire la sincera verità, tra l'altro lei sta parlando con una persona che gli hanno naturalmente fregato un brano a livello insomma nazionale, che tuttora sto ancora in causa, con un brano naturalmente defraudato da Sanremo 1992. Attenzione. Sì, sto purtroppo ancora in causa. E quindi anche per quanto riguarda la composizione ci dà molta possibilità quello di spaziare naturalmente su delle melodie non cioè la composizione vera e propria adesso è diventata molto difficile perché ahimè devo dare ragione al maestro Morricone quando nel momento in cui anche in una situazione di seduta di causa diceva che ormai la complessità matematica della composizione è completamente esaurita. Nova Lab 24. Bentornati, 16:36, avete sentito l'edizione straordinaria del giornale radio, è Luca Tremolada al microfono, Guido Romeo, siamo qui con Roberto Andreoni, compositore e quindi non è fondatore di Agon, no. Agon è un gruppo in evoluzione, sono stato fra i primi membro di Agon. Sì, insieme a Pietro Pirelli e Luca Francesconi che fu fra i fondatori, appunto Michele Tadini, Pierini, per cui, insomma, Franceschini, molti altri. Una bella squadra. E abbiamo in collegamento Francesco da Caserta, anche lui compositore, che insomma ci stava spiegando che i programmi informatici vanno bene, pur essendo lui stato soggetto a un fenomeno di frode, no? Di plagio, purtroppo conclamato, però, vabbè, capita. Però le stavo spiegando prima, quindi questo i suoi ospiti mi potranno insomma capire benissimo, che oggi per un compositore è molto molto difficile fare una composizione che non assomigli a un'altra composizione, tanto che io il mio avviso è che mettere in dubbio anche adesso la famosa Società Italiana Autori Editori, che dovrebbe tutelare il diritto dell'ingegno, anche perché poi ci sono capitato io proprio di prima persona, che diventa un po' difficile tutelare il famoso diritto dell'ingegno. Cioè, ma è del tipo siamo nani sulle spalle di giganti, per cui insomma di fatto andiamo è un po' così, tutto quello che c'era da inventare è stato inventato, la musica degli anni 70. Infatti questo è perché ormai lo standard musicale, quindi diciamo il famoso ritornello ritondante o la melodia che funziona, bisogna stare accorto adesso che cosa mettere sul pentagramma, perché naturalmente potresti andare tranquillamente a pestare i piedi agli altri e quindi che hanno un diritto punto di priorità rispetto a una dichiarazione che tu fai, quindi, e che poi ce ne assumiamo tutta la responsabilità nel momento in cui firmiamo il famoso foglio, che nel certo. momento in cui l'andiamo a depositare. Quindi è diventato difficile, e ecco la ragione perché io penso che ci sia assolutamente una situazione arida di composizione. Infatti speriamo che Sanremo ci sia una sorsata di melodie nuove. Ah, una speranza, ecco, non mi aspettavo questa chiusura su Sanremo, sinceramente, cioè, nel senso che alzato la palla e ho detto, beh, però è vero, insomma, come si muove un compositore rischia poi di andare a minimamente toccare una melodia o richiamare una melodia più famosa o più antica, insomma, a seconda, poi su Sanremo. Comunque, grazie Francesco, proviamo a girare l'osservazione a Roberto Andreoni. Insomma, il messaggio di Francesco è abbastanza chiaro, cioè bisogna stare attenti, perché è come se la musica da un certo punto di vista fosse finita, cioè le melodie sono già state tutte scoperte e adesso bisogna stare un po' a tempo. Mi sembra una tesi un po' estrema. No, come avete presentato voi fin dall'inizio, possiamo entrare nel suono oggi grazie alle nuove tecnologie. Questo apre una banca dati pressoché infinita di nuove possibilità e di nuovi corticircuiti che possono esistere nel riconoscimento, nell'assemblaggio, nella granularizzazione di qualsiasi aspetto del suono. Un esempio, per esempio, quello che abbiamo fatto di recente. Esatto, infatti volevo arrivare qui anche perché troppe parole, no Guido? Facciamo sentire un po' di musica. Facciamo sentire due minuti del il suono della guerra dei suoni, l'installazione che ha vinto il premio BEA, giusto? Che sì, okay. Miglior evento pubblico italiano del 2009. Sentiamone un breve estratto dedicato al futurismo, un breve estratto. Studio. Maestro, ma ce la presta come sigla questa? Magari, un pezzettino. No, manca per esempio, la voce robotica Nova Lab. Ci possiamo lavorare. Se non c'è la voce robotica. Per esempio, in questo brano, tutto quello che voi avete sentito potrebbe assomigliare a delle percussioni, a dei suoni orchestrali, a dei suoni di tastiere. È tutto tratto invece da un suono di flauto. C'è un flauto dal vivo che suona, ma tutto quello che c'è intorno è tratto dal suono. Registrato, campionato, allargato, ristretto, esploso. Io mi aspettavo il solito persona in fracche che suona i tamburi, cioè sai, il classico del no, concerto. L'attacco labiale del suono del flauto, l'estensione, il suono d'aria, eccetera, e alcuni suoni di voce che avete anche sentito, di una sillaba, una piccola sillaba e un piccolo suono di flauto possono diventare tutto questo. Però quindi, questo è un utilizzo non convenzionale del flauto, cioè nel senso... Esattamente, infatti la nuova tecnologia sta portando la composizione in queste due direzioni. Una è quella che diceva l'ascoltatore di prima, cioè un realismo sempre maggiore nel creare delle simulazioni alla portata di tutti. Anch'io ho un'orchestra nel mio laptop e me la porto dietro, come un tempo bisognava avere dei costi enormi per poter avere certi suoni o la simulazione o soltanto una breve esecuzione di un brano per più strumenti. Il che danneggia la musica, fra l'altro, perché sempre meno vengono ingaggiati musicisti veri e propri che suonino un'orchestra d'archi, uno dei fiati o delle percussioni. Questo quindi è vero, fatto è vero questo è fatto aspetto. Proprio per rendere la portata di tutti e quindi abbassare i costi. Dall'altro lato, in compenso, c'è anche l'opposto, cioè la possibilità di uno straniamento assoluto. Nelle installazioni che oggi si fanno sempre di più di musica insieme ad arte, musica e video, musica e installazione interattiva, può succedere, come magari in un museo d'arte contemporanea, in una mostra particolare, di sfiorare, accendere un fiammifero. L'accensione del fiammifero scalda un altro sensore, il quale sensore fa partire un input digitale che poi fa partire un film e a sua volta dei suoni di trombe. Allora, okay, il bambino che accende il fiammifero pensa che allora l'accensione del fiammifero provoca il suono delle trombe. Questa è una situazione di straniamento che crea stupore, chiaramente, ma che separa quello che è la fonte tradizionale della produzione del suono, che invece digitalizzata può diventare tutto il contrario di tutto e quindi creare dei paradossi dell'ascolto anche. Ecco, però questo è un ascolto, diciamo che è una concezione o un'interpretazione della musica che vuole un po' giocare, un po' referenziale, nel senso che è la musica che gioca con se stessa per poi giocare anche con l'ascoltatore. È la musica che, come sempre, cerca di camminare sui limiti della percezione, sui limiti delle possibilità tecnologiche, su tutto ciò che si può fare con questo nuovo strumento, con questo nuovo software, e quindi senza temere di entrare dentro ai paradossi anche. Nova Lab 24. Allora, bentornati, 16:46, stiamo discutendo, stiamo cercando di capire, almeno io personalmente sto cercando di capire qualche cosa di più sul fronte dell'ingegneria dei suoni, la musica contemporanea. La cosa che veniva in mente a me e a Guido in questo momento era come nel settore del campo del giornalismo, ma non solo, insomma, si assiste a molta gente scrive, molta gente ha la possibilità di esprimersi attraverso un blog. Molte persone possono creare un film, dare vita a una mini produzione, anche a canzoni. Assolutamente, diciamo, il paradigma del digitale, del web 2.0, se vogliamo, è quello dei contenuti generati agli utenti, che spesso, beh, noi lo vediamo nella scrittura, che forse lì la soglia si è, come dire, crollata, non si è abbassata proprio. E tra l'altro questa cosa è eccezionale dal mio punto di vista. Eccezionale, allo stesso tempo un po' disorientante, ma sicuramente, secondo me, sono d'accordo con te, è un progresso. Ma nel video anche, insomma, ci hanno fatto vedere Sam Raimi, si è messo a produrre un sacco di film di ragazzi che avevano fatto cose con pochi soldi, insomma. Adesso ci sono anche Pippo Del Bono, ha realizzato un film con il telefonino, ecco. Quindi la domanda parte da lì, diciamo, quando le tecnologie digitali arrivano a toccare l'arte, la soglia d'entrata per i nuovi autori, i nuovi compositori, i nuovi videomaker si abbassa, crolla, si sgretola. Voi state vedendo la stessa cosa, Andreani, nella musica, o la musica forse è ancora un settore in cui sì, puoi giocare, ma voi veri compositori siete più... Sì, è verissimo, ed succede quella stessa cosa che è successa con la grafica, dove con l'esplosione dei software tutti si sono improvvisati grafici fin da un ventennio almeno. Lo stesso sta succedendo adesso con la musica, però c'è un varco da passare che è difficile. Per questo vi racconto un aneddoto in 30 secondi. Parlavo con un collega dello studio, io lavoro molto negli Stati Uniti, lo studio di pubblicitario più famoso di Manhattan, dove, per dire, questo mio collega è quello che ha fatto i famosi jingle pubblicitari della Coca-Cola, cioè le cose che tutti invidieremmo di aver potuto fare, se non altro per quello che avrà guadagnato. Ma gli chiedevo appunto com'è il mercato in questo momento, e lui diceva è un disastro, perché è un compositore che ultra quarantenne come il sottoscritto, e dice adesso arrivano ragazzi di 16, 17, 18 anni che posseggono lo stato dell'arte, della tecnologia, e in 5 minuti riescono a fare ciò che noi riuscivamo a fare in 5 giorni, quindi un prodotto migliore con un suono strepitosamente pulito, bello, raffinato. Ci fregano sul mercato, ma sai qual è la resa dei conti? La durata. Nel senso che non riescono a esprimere 5, 6, 10 secondi di musica. Ogni volta che qualcuno di questi piccoli geni tecnologici vengono messi alle prese, per esempio con una lunga colonna sonora, non riescono a avere la grammatica, la sintassi, il pensiero formale di organizzare il suono sulla lunga gittata. e quindi su quello che può essere qualsiasi durata più lunga di una canzone. La snack culture, cioè si è ragionato sul fatto dei tempi brevi, anche il mondo di internet vive su video brevi, cioè, quindi, sì. Allora quindi qual è la risoluzione? Diciamo. Il loop, cioè la ripetizione continua di una stessa cosa, che infatti come nei videogiochi piuttosto che sui siti web eccetera, quello che sentiamo è un reiterarsi degli stessi 30 secondi che poi vengono ripetuti. Difficile avere una narratività complessa e che soddisfi come la lettura di un libro. È quello che si vede nelle arti visive, cioè nella foto, nel video, nella grafica, poi in fondo è così. Sì, non si devono superare i 3 minuti un video su YouTube. Beh, di ma fatto. Quello è per una soglia di attenzione, credo. Però, per esempio, nella foto digitale, credo che abbia avuto lo stesso impatto. Cioè, tutti fanno delle foto professionali adesso. Però tra fare un grande reportage e una foto bella c'è ancora un abisso enorme. E lì appunto entra in gioco la durata, la capacità di comporre, di sviluppare un discorso. Ma quanto il mercato chiede a un compositore, diciamo, opere corpose, per cui, cioè, di misurarsi su tempi lunghi? Sempre meno, perché sempre l'ascolto corposo, prolungato e attento è per la sala da concerto, in cui uno si siede e non fa altro che ascoltare. Questo succede sempre meno, e quindi diciamo che rimane una nicchia importante per le grandi orchestre sinfoniche, le stagioni o le grandi installazioni, le grandi celebrazioni che hanno bisogno magari di una serata di musica complessa, le inaugurazioni, queste cose qua. Ma il grosso del mercato è proprio invece sulla breve durata e la presa immediata dell'ascoltatore. Io ringrazio Roberto Andreoni per questa lunga maratona. Grazie a voi. Ringrazio Guido Romeo. Noi ci sentiamo domani alle 16, parleremo di internet e di social networking. Nova Lab 24.